in primo piano. Bene, allora questa mattina abbiamo prime pagine piuttosto variegate, i temi sono tanti e ogni giornale sceglie la sua ricetta. Passiamoli in rassegna. Cominciando dal Sole 24 Ore, banche, vincoli più rigidi, via libera dell'Europarlamento ai requisiti patrimoniali rafforzati e alla supervisione sugli alti rischi. Questo era il Sole. Altri giornali come il Corriere della Sera scelgono la strage in Afghanistan per l'apertura. Afghanistan, strage di civili, raid USA fa più di 100 morti, shock per Obama, scuse della Casa Bianca, questo è il titolo del Corriere. La Stampa invece sceglie un'apertura particolare perché ha un'intervista esclusiva con il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano fatta dal direttore Mario Calabresi. Ecco perché ho invitato la vedova Pinelli. Vi do brevemente alcune delle battute che fa il Capo dello Stato. Su Piazza Fontana ho voluto superare una lacerazione, un senso di estraneità e farmi carico del dolore di tutti. Gli anni di piombo non possono essere considerati come una conseguenza della strage avvenuta nel 69. La memoria non può dividere, serve la consapevolezza della sfida che il terrorismo portò alla democrazia. La presenza delle due vedove insieme a Roma sabato sarebbe un segnale di pacificazione. Quest'anno occorre mettere l'accento in particolare sul fenomeno dello stragismo, il caso Battisti, inaccettabili letture romantiche, le responsabilità non possono essere dimenticate. Queste sono alcune delle frasi dette dal capo dello Stato Giorgio Napolitano a Mario Calabresi sulla Stampa di oggi. C'è un'altra intervista importante ed è quella al presidente statunitense Barack Obama, la mia ricetta contro la crisi, la troviamo oggi sulla prima pagina di Repubblica. Anche qui vi do alcune battute. I mercati rimarranno una parte significativa della nostra economia, ma non saranno più la metà dell'economia, dice Barack Obama. L'istruzione, la grande sfida è nell'istruzione, voglio vedere più lauree in scienza e ingegneria. Un'economia sana deve avere un'ampia gamma di lavori, nessun impiego dovrebbe scomparire. Queste erano le frasi che dice Obama nell'intervista a Repubblica. Poi ovviamente in primo piano su molti quotidiani il tema del decreto sulla sicurezza, battaglia sulla fiducia è il titolo di Repubblica. Stop alla Lega, il PD, tornano le leggi razziali, questo è il titolo del Corriere della Sera, Maroni contro i franchi tiratori nel PDL, giro di vite sui clandestini, titola invece la Stampa. Passando ancora in rassegna le prime pagine con gli altri titoli che troviamo questa mattina, interessante è il caso Internet, no europeo alla linea dura per chi scarica gratis dal web, questo è un titolo ripreso dal Corriere della Sera, il terremoto, allarme all'Aquila, i soldi non bastano, presto arriveranno nuove tasse, segnala Repubblica. Ovviamente in primo piano anche il libro bianco del ministro del welfare Sacconi presentato ieri, vi leggo il titolo del Sole, nuovo spazio a salari locali, anche se Sacconi dice che non sono gabbie salariali, e polizze sanitarie integrative, questo è il titolo appunto del Sole. Il Messaggero punta sulle norme per Roma Capitale, Berlusconi dice ad Alemanno subito i nuovi poteri. Tra le curiosità vi segnalo infine un titolo del Corriere della Sera, Film e la tentazione proibizionista. Alemanno contro romanzo criminale, accusato di incentivare i giovani, soprattutto bulli romani, a usare troppo spesso le armi da taglio nelle loro risse, mentre Brunetta se la prende contro le pellicole sui precari. Ultima segnalazione dalle prime pagine, le autostrade degli sprechi, Sicilia da record, ci sono due casellanti per ogni chilometro, questo è il titolo del giornale. Adesso passiamo brevemente a qualche editoriale, Sul welfare, ricominciare dai figli è il titolo dell'editoriale sul Corriere della Sera di Maurizio Ferrera. Ve ne leggo un breve stralcio. La discussione su come riequilibrare il welfare deve rimanere ancorata al tema della sostenibilità finanziaria. Il libro bianco prospetta scenari molto promettenti sia in campo previdenziale, elevamento dell'età pensionabile, sia sanitario, regioni più responsabili, più compartecipazione da parte degli utenti. Dati i vincoli di bilancio, il nuovo welfare non potrà permettersi di spendere di più, dovrà invece imparare ad essere più efficiente e soprattutto a distribuire la spesa in modo più equo ed efficace fra i diversi gruppi sociali e i diversi bisogni lungo tutto il ciclo della vita. Questo era l'editoriale di oggi sul Corriere della Sera. Passando ad un altro commento, vi segnalo Guido Tabellini, rettore della Bocconi, sul Sole 24 Ore di oggi: idee e regole per il mondo dopo la tempesta finanziaria. Ecco cosa dice, tra l'altro, Tabellini. La crisi è scoppiata per via di alcuni specifici problemi tecnici riguardanti il funzionamento e la regolamentazione dei mercati finanziari ed è stata acuita da una serie di errori commessi durante la gestione della crisi. Sebbene si tratti di problemi complessi, essi possono essere affrontati e risolti con adeguate, seppure profonde, riforme della regolamentazione finanziaria. Se sapremo imparare da questi errori e gestire bene l'uscita dalla crisi, il mondo dell'economia tornerà ad essere come prima, anzi meglio di prima, con meno eccessi e più stabilità. Parlare di crisi del capitalismo, di fine della globalizzazione, di crisi di un sistema e di un modo di pensare sarebbe una solenne stupidaggine. Ecco quello che dice Tabellini sul Sole 24 Ore di questa mattina. Passiamo ad un altro commento. Troppa fretta è il titolo dell'editoriale di Federico Geremicca sulla Stampa. Si riferisce alle polemiche sul decreto sicurezza. È una linea pagante quella della durezza proclamata e talvolta praticata, si domanda Geremicca. Ad un anno dall'insediamento del governo l'interrogativo è legittimo. E se le opinioni possono essere assai diverse, sulle cifre invece c'è poco da arzigogolare. Se per esempio si assume come parametro quello che è accaduto in questi 12 mesi a Lampedusa, luogo simbolo del dramma immigrazione, qualche dubbio è lecito. Gli sbarchi sono più che raddoppiati e dall'insediamento dell'attuale governo e sull'isola di una vice sindaco leghista, Lampedusa è diventata un inferno. Fughe dal centro di identificazione, incendi nella struttura, immigrati in corteo insieme ai lampedusani e l'isola trasformata in una sorta di Guantanamo con centinaia e centinaia di carabinieri e poliziotti a pattugliare ogni angolo di strada. Questo è il commento sulla Stampa di stamattina. L'ultimo editoriale che vi volevo segnalare, perché è controcorrente rispetto al pensiero comune, è quello che compare oggi sul Foglio: nessun tagli, perché adesso la riduzione dei tassi in Europa non è prioritaria. E lo scrive proprio oggi il direttore Giuliano Ferrara, nel momento in cui, alla vigilia appunto della decisione che tutti danno per scontata da parte della BCE di un nuovo taglio dei tassi di interesse. Oggi la BCE dovrà decidere se lasciare invariato il tasso di interesse o ribassarlo in modo da arrivare al livello minimo di un punto. Sembra l'ultima pallottola a disposizione dell'autorità monetaria, considerando che questo tasso nominale con un'inflazione all'1% corrisponderebbe a un tasso reale pari a zero. Contro questa decisione ci sono argomenti da non trascurare. Le tensioni sui mercati del credito nell'area dell'euro si stanno attenuando. Il tasso Libor a tre mesi sul dollaro è sceso allo 0,986%, il livello più basso toccato per i prestiti interbancari dal 2003. A questa riduzione del costo del dollaro sul mercato di Londra fa riscontro il tasso a tre mesi sull'Euribor, cioè sull'euro, sceso all'1,34%. Quest'ultimo è il più alto di quello sul dollaro di circa mezzo punto, ma il tasso di interesse della BCE è di 0,75 punti più alto di quello della Fed. Queste le argomentazioni di Giuliano Ferrara per auspicare che la BCE si fermi nella sua progressiva riduzione dei tagli di interesse. Bene, un ultimo accenno prima di dare la linea al traffico. Vediamo i titoli Di politica estera sui giornali di oggi, immigrati alla deriva, nuovo scontro con Malta, titola Repubblica, molti giornali, tra cui ovviamente Repubblica, ma anche il Corriere, la maggior parte dei quotidiani, poi sottolinea il caso Praga, dove appunto il Parlamento vota il sì al Trattato di Lisbona, ma il presidente euroscettico Klaus sgambetta l'Europa. Questo è il titolo di Repubblica e si rifiuta di promulgare la legge. Una passata velocissima sui titoli invece di politica. A Bolzano riparte la campagna contro gli italiani, la SVP candiderà solo esponenti di lingua tedesca, è un titolo del Corriere. E infine, sempre dal Corriere, per la politica vi segnalo le reazioni all'intervista di Rutelli che diceva il PD non è la sinistra, il partito si spacca, Livia Turco dice se fosse così me ne andrei, Morando invece ribatte è vero, siamo infatti il centro-sinistra. Questi erano i titoli che vi ho scelto dalle pagine politiche. Allora, class action, in primo piano di nuovo, il PDL dice no ai risarcimenti retroattivi, quindi i consumatori si potranno rivalere contro le società che li hanno in qualche modo truffati soltanto per il futuro. Il PD protesta, così vengono penalizzati le vittime degli scandali finanziari. Questo è il titolo del Corriere della Sera e il tema della class action sarà sicuramente un tema che ci porteremo appresso nei prossimi mesi, perché è ovviamente delicatissimo. Basta vedere l'impatto che negli Stati Uniti questo tipo di misure hanno per le aziende e per i consumatori. Un altro titolo che vi segnalo è questo di Repubblica: SMS troppo costosi, giro di vite delle autorità di vigilanza, la GCOM e l'antitrust, è un salasso per il 25% degli italiani. Quindi le due autorità di controllo preannunciano nuove misure in arrivo. L'auto, evidentemente il tormentone intorno a Fiat, Chrysler e Opel continua, ma la notizia del giorno è il sì alla maxi fusione tra la Porsche e la Volkswagen. Il gruppo che nasce così produrrà 6,5 milioni di auto, questo è il titolo del Corriere. Marchionne intanto annuncia: sarò l'amministratore delegato della Chrysler. E dal Tribunale degli Stati Uniti arriva il primo sì alla bancarotta veloce per le nozze con la Fiat. Sempre per quanto riguarda il mondo dell'auto, dai tedeschi invece il primo sì all'offerta della austriaca canadese Magna per la Opel. Quindi la strada della Fiat per la conquista della società automobilistica tedesca si fa più in salita. Questa è la notazione che fa la stampa. Tornando al mondo finanziario, banche USA servono altri 75 miliardi, titola Repubblica, e di questi ben 34 servono alla Bank of America. Queste sono le indicazioni che emergono dagli stress test a cui sono state sottoposte i maggiori istituti americani dopo il piano di salvataggio della Casa Bianca. Tassi ovviamente BCE verso l'1% e sono in arrivo anche nuove misure sui bond, questo è l'annuncio che farà probabilmente oggi il presidente Jean-Claude Trichet. Altri titoli: Tiscali vola in borsa, è vicina la cessione delle attività in Gran Bretagna, titola Repubblica, sottolineando il rialzo del 16% del titolo della società di internet fondata da Renato Soru ieri a Piazza Affari. All'Italia Berlusconi promette sarà più puntuale, mentre Spinetta, il presidente di Air France, sottolinea come i conti siano migliori del previsto e dice questo è un fatto abbastanza eccezionale vista la negativa congiuntura internazionale. Ancora qualche titolo di economia ripreso dai quotidiani di oggi, Piazza Affari ristruttura i debiti, dall'inizio della crisi sono stati rinegoziati finanziamenti per 26 miliardi di euro, sottolinea il Sole 24 Ore in prima pagina stamattina. Lavorare meno, lavorare tutti, la svolta di Bruxelles, bisogna ridurre l'orario di lavoro per salvare un maggior numero di posti. Questo è il titolo della Stampa e fa rivenire in mente, ricorderete, quando il governo Prodi, il primo governo Prodi, cascò proprio perché Rifondazione Comunista chiese la riduzione dell'orario di lavoro e uscì dal e fece cadere il governo. Sempre in materia di welfare e dintorni, un altro titolo della Stampa: Sacconi marcia indietro sui licenziamenti, stiamo parlando del libro bianco presentato ieri. In tempi di crisi, dice il ministro, non possono essere all'ordine del giorno riforme sull'articolo 18, quello per i licenziamenti senza giusta causa, riforma delle pensioni e riforme degli ammortizzatori sociali. Questo dice appunto il ministro nel presentare le misure che sulla carta invece vengono indicate appunto anche quelle più polemiche, come appunto la riforma dell'articolo 18. Bene, ancora rapidamente qualche titolo di cronaca dai giornali di oggi. Attacco di cuore, muore Marcelletti, il primo cardiochirurgo a trapiantare il cuore ad un bambino. Un anno fa, ricorda il Corriere della Sera, c'era stato l'arresto per una vicenda di malversazione e molestie. Ancora un titolo di cronaca: droga libera contro la crisi, California, il governatore Schwarzenegger apre il dibattito sulla marijuana libera. Come peraltro in altri paesi europei, adesso se ne comincia a parlare anche in California. Questo è un titolo della Stampa. Ancora, bandiere blu aumentano le spiagge DOC in Italia, titola oggi il Corriere della Sera. Bene, prima di chiudere la rassegna vi leggo rapidamente qualche titolo preso dai quotidiani che non ho citato stamattina. Sesso e politica in TV, Santoro carica i fucili, titola Libero, preannunciando una puntata di fuoco ad anno zero questa sera. Secolo XIX, lite sulla fiducia, rischio razzismo, è l'apertura del quotidiano genovese. L'Unità, leggi razziali, è il titolo a proposito del decreto sicurezza. Una puntata di sport con la Gazzetta, le ultime di Maldini, parla il capitano. Il mio erede è Thiago Silva con Favalli Tutor, tre rinforzi e il Milan può competere con tutti, intanto Nesta è ormai a un passo dal ritiro. Il Giorno, la rinascita, un mese dopo l'Aquila ricorda e lavora per costruire. L'Avvenire, Afghanistan, Raid USA, una strage di civili. Il Secolo d'Italia, rivoluzione popolare, il nuovo welfare di Sacconi che dice critiche borghesi, ce ne freghiamo. Bene, io ho finito la rassegna stampa di questa mattina, noi ci risentiamo domattina.